Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, senti qua come te lo comincio questa settimana. Oddio mio. Senti, che cosa ti dice la parola serendipità? Dire il vero, è forse più bello il termine inglese, serendipity. C'è anche un film che si intitola così. Me l'ha detto Laura, io non l'ho visto. Penso che sia la fortuna di fare scoperte, felici scoperte, per puro caso. Come ad esempio trovare una cosa non cercata e imprevista mentre se ne stava cercando un'altra. Esatto. Allora, così, ho immaginato che questa possa essere stata la sensazione, ma non credo, che ha provato il pilota, perché questa ci è piaciuta proprio tanto di notizia, il pilota della compagnia low cost Eurasia, e insieme a lui ben 212 passeggeri che si erano imbarcati a Sydney perché dovevano andare a Kuala Lumpur, capitale della Malesia, e invece si sono così ritrovati... Rispettiamo anche un po' di... esatto. Ripassiamo un po' di geografia. Brava, esatto, io ne ho bisogno parecchio. Anch'io. Invece si sono ritrovati a Melbourne, sempre in Australia, e tutto questo per un errore del pilota che aveva inserito dati di volo sbagliati nel sistema di navigazione. Quando se ne è accorto non ha più potuto modificarli. È una cosa che è successa nel 2015, è stata resa nota solo adesso. Insomma, chissà se è capitato anche a qualcuno dei nostri ascoltatori. Chiamateci e scriveteci 800 24 00 24, oppure... più facilmente si cambia, si sbaglia il treno, magari uno va a finire anche in un altro binario, come è capitato, posso dirlo, al nostro Marco Lombardo questa mattina. L'ho raccontata, Marco. Esatto, a tutto il mondo. Allora, raccontateci quella volta che vi siete trovati inaspettatamente altrove rispetto al luogo che volevate raggiungere. 349-238-6666, ma noi andiamo subito dritti alla nostra rassegna stampa. Partiamo subito con la borsa, togliamoci immediatamente questo problema, perché stamattina la giornata è partita proprio male, Nicoletta. Umore pessimo per i listini continentali, con Milano che addirittura arretra del 2%. Le vendite sono distribuite fra i vari settori, ma sono soprattutto il settore tecnologico, energetico a perdere di più. Paradossalmente oggi i bancari sono tutti in rosso, ma perdono un po' meno degli altri settori. Peraltro c'è una scivolatina anche di Monte dei Paschi nella settimana decisiva per il cambio della guardia, la guida dell'istituto, per il quale è dato ormai per scontato l'arrivo di Marco Morelli al posto di Fabrizio Viola. Milano peggiora, anzi in questo momento vede un calo del 2,60%, oltre 2 punti di ribasso per le altre borse europee. Ecco la raffica dei titoli che perdono di più: Saipem meno 4,62, Azimut meno 4,35, Telecom meno 4,29, Unipol meno 4,18, Ubibanca meno 4. Mi fermo ai titoli che perdono 4 punti percentuali, ma vi dico solo che non c'è nessun titolo positivo a Milano in questo momento. Che cosa sta succedendo? Succede che praticamente uno dei vari esponenti della Banca Centrale Americana, il numero uno della Federal Reserve di Boston, Eric Rosengren, ha evidenziato l'esistenza di condizioni economiche che possano consentire un rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Quindi stiamo sempre lì a guardare la politica monetaria. Questa è la settimana in cui peraltro si riunisce la Banca d'Inghilterra, il 15 settembre, quindi fra 3 giorni, ed è praticamente la seconda riunione dopo quella importante di agosto in cui è stato effettuato lo storico taglio dei tassi di interesse nel Regno Unito, anche a seguito della crisi provocata da Brexit. Allora, la decisione, questo è un tema che ha interessato veramente tanto tutti, abbiamo fatto tante puntate, Nicoletta, con una marea di telefonate. Il pagamento dell'abbonamento Rai, del canone Rai in bolletta della luce, a luglio è arrivata praticamente per tutti. Sì. Quindi chi magari era abituato a pagare delle bollette normali, modeste, ecco qua che ti è arrivato lo stracchino del circa 70 euro in più. La decisione di accorpare nella bolletta della luce il pagamento del canone RAE sta a quanto pare portando i primi risultati sperati, perché secondo le rilevazioni del Ministero dello Sviluppo Economico è calato drasticamente il numero dei morosi, e ne ha scritto in questi giorni sul Sole 24 Ore il collega Saverio Fossati, che salutiamo. Saverio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, avevamo questa cifra. In Italia praticamente avevamo un ammontare di circa 6-7 milioni di famiglie che non pagavano il canone. Quanti hanno dichiarato di avere i titoli per non farlo? Insomma, che cosa ha scoperto questo piccolo censimento del Ministero dello Sviluppo Economico, Saverio? Ma dunque, finché c'era tempo, cioè fino al 16 di maggio, si poteva inviare una dichiarazione alle entrate dicendo: io non devo pagare il canone A perché ho più di 75 anni e un reddito sotto gli 8.000 euro, B perché non ho l'apparecchio televisivo, che è il caso più frequente, e C perché, state attenti, perché io ho tre bollette elettriche, una nella seconda casa, una qui e una dalla, non so, al garage, intestata quindi a tre non persone potete, diverse che esatto, vivono tutte con me, e quindi state attenti, mandatemi una sola. Ecco, questi erano tre motivi per cui uno inviava queste dichiarazioni. Ne hanno inviato 817.000. Quindi vuol dire che solo, e c'era tutte le possibilità di inviare per posta, in via telematica, attraverso un commercialista, completamente gratuita naturalmente, tranne che uno si servisse del commercialista, però erano molto semplici da compilare e c'era anche stato abbastanza tempo. Quindi in realtà diciamo, quelli che avevano delle buone ragioni per farle, io penso che più o meno l'abbiano fatto. Gli altri erano persone che non pagavano perché erano riusciti, diciamo, a eludere fino a quel momento, certo, i controlli dell'agenzia. Ma secondo te c'è anche chi proprio per in questa ostinazione di non voler pagare il canone RAI magari si sta avventurando anche nella morosità della bolletta della luce di luglio? Ma secondo me non è che, più che altro sono persone che o non hanno fatto la dichiarazione pur avendo il titolo per farlo, perché non hanno capito come si faceva, perché non sono state informate bene, oppure perché l'hanno fatta e per un qualche complicazione di carattere informatico il canone è stato loro ugualmente addebitato poi in bolletta. Cioè un errore dell'Agenzia delle Entrate e o dell'acquirente unico, che è un po' il filtro fra Agenzia delle Entrate, certo, e società elettriche che mandano le bollette. E allora, proprio per tutte quelle persone che in realtà hanno tutto il diritto di non pagare il canone RAI, ma che se lo sono visto addebitare nella bolletta di luglio, dal 15 settembre sarà possibile far partire un'operazione di rimborso, no? Allora, come funziona? Sarà automatica? Saverio, quali le informazioni che devono avere gli interessati? Allora, intanto quelli che si sono autoridotti la bolletta, cioè dicendo: no, qui c'è stato un errore, io non lo devo pagare e quindi pago solo il consumo elettrico, e hanno fatto una bolletta a parte, se hanno titolo per farlo, cioè è stato proprio un errore, l'Agenzia delle Entrate aveva già detto che potevano farlo, non c'era niente di illecito. Penso che siano veramente molto pochi, a giudicare dai dati che ha diffuso il Ministero. Quelli che invece, e sono soprattutto quelli che ricevono la bolletta sul conto corrente, no? Quindi non possono… A debito automatico, esatto, certo. Esatto. Quelli che invece sono vittime di un errore oppure non hanno, si sono dimenticati di fare quella famosa dichiarazione pur avendo tutto il diritto di farlo, possono fare questo famoso modulo di rimborso che si fa molto comodamente in via telematica dal 15 settembre sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Trovate tutte le istruzioni per farlo, non è una cosa particolarmente trascendentale la compilazione del modello, bisogna indicare il motivo per cui in sostanza si richiede il rimborso, che i motivi sono o perché appunto non si è in possesso dei requisiti di esenzione, cioè più di 75 anni e reddito non superiore ai, scusate, 8.000 invece 6.713 euro, o perché uno dei due esenti per effetto di convenzioni internazionali, diplomatici, militari stranieri, casi molto rari, o perché appunto un membro della famiglia anagrafica ha pagato con altre modalità che non erano l'addebito in bolletta, oppure quello che i due casi insomma più frequenti, perché è già stato pagato da un altro membro della famiglia anagrafica, oppure semplicemente perché nessuno nella famiglia anagrafica possiede un apparecchio televisivo. Benissimo. Il rimborso automatico avverrà, come dire, in contanti? Con che modalità, Saverio, si conosce? Allora sì, è abbastanza facile. Viene accreditato direttamente nella fattura elettrica successiva. Cioè la stessa che ti ha tolto i soldi, la stessa che ti ha tolto i soldi per girare le entrate è la stessa che riceverà i soldi dalle entrate e te li verserà nella fattura elettrica. Ottimo, quindi attenzione al 15 settembre. Scatta l'ora X sull'agenzia, sul sito dell'Agenzia delle Entrate tutte le informazioni, magari metteremo il link anche noi sul nostro profilo Facebook. Intanto grazie a Saverio Fossati e buona giornata. Buongiorno a tutti, a risentirci. Io non posso chiedere nessun rimborso perché devo pagarla, Nicoletta, non so anch'io. Tu, ecco, quindi niente, andiamo a sentire il traffico, che è meglio, a tra poco. Cuore e denari. Allora, Deborah, per la rassegna stampa di cuore ti porti in America. Hai sentito, no? Andiamo. Hillary sì. Clinton, che ha avuto questo malore che l'ha costretta a lasciare la cerimonia di commemorazione dell'11 settembre. All'inizio sembrava proprio il classico colpo di caldo, un po' di stanchezza, il caldo. Poi in serata in realtà il suo medico ha annunciato che già venerdì le era stata diagnosticata una polmonite. Forse è stato un po' un azzardo permetterle di andare alla commemorazione, ma sentiamo il nostro amico, il dottor Roberto Boffi. Buongiorno, dottor Boffi. Buongiorno. Pneumologo e responsabile della pneumologia all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Lei l'avrebbe lasciata andare? Magari non era facile convincere un candidato presidenziale a stare a riposo, però è sicuramente stato un po' imprudente, perché immagino la febbre associata all'infezione e la conseguente disidratazione probabilmente ha causato un calo brusco della pressione fino allo svenimento. Ecco, quindi ci sta, perché ci sono subito le male lingue che, no, che stanno ipotizzando. Ma sì, si può svenire per la polmonite? Beh sì, perché si parla nella rassegna stampa di tosse prolungata, di già uso da qualche giorno di antibiotici, di una diagnosi appurata di un'infezione visibile, ma presumo con una radiografia del torace, per cui una paziente un po' debilitata. Lo stress, gli sbalzi temperatura, l'aria condizionata sicuramente non hanno facilitato la convalescenza, che era ancora all'inizio. No? Di solito anche i medici di famiglia danno almeno 10 giorni di riposo a fronte di una polmonite in un paziente, peraltro non che mi risulta abbia delle patologie concomitanti, quindi una persona sana, anche se non giovanissima, però in buona salute. Quindi in una decina di giorni dovrebbe tornare in gamba, ma anche ieri si è messa subito in pista, tanto che qualche ora dopo ha risposto alla domanda di una giornalista di Fox TV dicendo: oggi è una gran bella giornata a New York e sto meglio e mi sento bene. Auguri a Hillary Clinton e auguri e buona giornata al dottor Boffi. Grazie. Grazie. Day by day, day by day, on me, shine on me, shine on me, day by day. E domani, proprio domani, riprenderà la scuola anche ad Amatrice. E oggi a Radio 24 dedico un ampio spazio alla partenza dell'anno scolastico e a Cuore Denari abbiamo scelto di raccontarvi la sfida della preside di Amatrice, Maria Rita Pitoni, di far tornare gli studenti a scuola nei tempi previsti, nonostante il terremoto. Allora salutiamo e ringraziamo la preside di Amatrice che è in linea con noi. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Preside, la ripresa dell'inizio scolastico ha quest'anno anche un valore simbolico. Intanto grazie per essere con noi. Sì, diciamo che abbiamo lavorato in maniera molto di squadra con la task force che il ministro Giannini ha voluto permanente a Rieti e anche sul territorio, e con il contributo della provincia, della protezione civile della provincia di Trento, siamo riusciti ad arrivare a questo traguardo che è domani. Domani sarà inaugurata la scuola e quindi è il primo segno della rinascita di una comunità. E certo, perché la comunità che ha una scuola è una comunità che ce la fa, perché ha anche uno sguardo proiettato al futuro. Certo. Preside, la sua è una sfida nella sfida, perché anche per lei si tratta di un nuovo inizio. Infatti ha ricevuto l'incarico, la sua nomina è arrivata dopo una settimana dal sisma, una scelta che è stata anche fatta in base al suo profilo. Lo commentavamo con Deborah, perché lei non è nuova delle situazioni di emergenza, visto che ha partecipato come volontaria della Croce Rossa in Iraq, in Kosovo. Con che spirito ha accettato questa sfida? Diciamo, io sono una persona che affronta sempre le sfide, mi piacciono le sfide, e quindi poi il fatto che sapevo che non dovevo gestire questa situazione da sola, ma c'avevo tutto il supporto del Ministero dell'Istruzione, mi ha reso più tranquilla e quindi ho accettato questa sfida di aprire la scuola ad Amatrice, ma di dargli soprattutto una continuità. E una regolarità dell'attività scolastica. Le aule sono costituite da 22 moduli, preside. Sì. Ci spiega cosa sono e come verranno utilizzati? Allora, Allora, abbiamo tutta una struttura, una serie di moduli dall'infanzia fino alla scuola media. Poi c'è davanti, diciamo, i moduli del liceo scientifico con la presidenza e le segreterie, i laboratori, la biblioteca. Poi questo campus sarà completato da una palestra, da un campo di calcio e anche dalla mensa. Quindi diventa un vero e proprio campus scolastico. Allora, con gli auguri di tutta l'Italia e non solo, naturalmente uniamo gli auguri miei di Deborah, della donna di cuore e della donna di denari, siamo con voi, con tutta l'Italia. Una marchigiana, preside Pitoni, ci tengo a dirlo, quindi vi sono particolarmente vicina, avendo ancora tutta la famiglia lì, sì. Grazie. Ma nel corso di questo anno scolastico, preside, lasciamoci con questa promessa, ci terremo in contatto. Perfetto. Per accompagnarvi in questa sfida. Esatto. Grazie. E per non abbassare i riflettori, come è nel timore largamente diffuso di tutti. Grazie, preside. Allora, e noi continuiamo in questa prima parte del programma a parlarvi di scuola, perché dopo la nostra puntata della settimana scorsa, in cui vi abbiamo invitato a sottoporci dei casi, devo dire che la nostra redazione è stata affollata di richieste. Sì, sì, di tantissime richieste, e noi già abbiamo da oggi cominciato ad accontentare gli ascoltatori, sia con il tema di cuore che con quello di denari. Infatti, noi abbiamo selezionato la richiesta di Chiara, che ci sottopone un tema particolarmente caro a cuore denari. Andiamo ad ascoltarla. Buongiorno, ho sentito il vostro invito a proporre un tema per la trasmissione e prendo la palla al balzo per chiedervi di affrontare il discorso disturbi dell'apprendimento. Per i bambini con disturbi d'apprendimento, la scuola può diventare un vero e proprio calvario. La scuola non è in grado, o non vuole, valorizzare la loro intelligenza. Non è in grado di rispettarli e li reprime, creando frustrazioni, paure e rabbia. I compagni di scuola si sentono così legittimati a deriderli. Dimostrazione di ciò? Mio figlio, dopo 3 mesi sereni, è scoppiato a piangere in cartoleria mentre compravamo i quaderni. Lascio a voi immaginare il suo e il nostro stato d'animo. Allora, avrete sicuramente capito che subito dopo il GR parleremo di dislessia, discalculia, disgrafia e quindi dei disturbi dell'apprendimento, insieme al più grande esperto italiano e non solo, il professor Giacomo Stella, che abbiamo il piacere di avere dopo 11 anni che lo conosco finalmente qua in studio in carne e ossa. Buongiorno, professore di psicologia clinica all'Università di Modena e Reggio Emilia e fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia. Ci aveva messo in lista d'attesa praticamente, sì, durata è stata un po' lunga. Andiamo subito a sentire il nostro GR e torniamo subito dopo insieme con voi. Grazie, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, oggi torniamo tutti un po' più giovani e torniamo a sederci sui banchi di scuola per il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. La campanella del primo giorno di scuola è già suonata il 5 settembre per gli studenti della provincia di Bolzano. Gli apripista, Deborah. Eccoli lì, bravi. A qualcuno tocca cominciare d'altronde. Adesso tocca agli uni e ai docenti, perché anche loro, della provincia di Trento, Abruzzi, Friuli, Lombardia, Molise, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Mercoledì toccherà Basilicata, Calabria, Liguria, Sardegna e Sicilia. Infine giovedì 15 settembre chiuderanno il cerchio Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Toscana. Per i vostri figli oggi è il primo giorno o ancora potranno godere qualche giorno di vacanza? Raccontateci com'è andata, se li avete accompagnati a scuola questa mattina, se i vostri figli sono andati a scuola, o invece se fate parte un po' del gruppo dei nostalgici, raccontateci il ricordo che avete nel cuore del vostro primo giorno di scuola. Ma la ripresa, lo sappiamo bene, non è uguale per tutti. Se non fosse stato per la mia lotta con la dislessia, dubito che sarei mai diventato scrittore o che avrei mai saputo insegnare agli altri a scrivere. Così Philip Schulz, poeta vincitore del premio Pulitzer nel 2008, racconta come ha vissuto la sua dislessia, tema di cui ci occupiamo oggi. Nel suo libro, dal titolo La mia dislessia, racconta infatti di essere stato un pessimo studente che non sempre capiva che cosa gli dicessero i suoi insegnanti e quando parlava aveva anche difficoltà a scegliere e a trovare le parole giuste e a pronunciarle correttamente. Non sapeva neanche leggere l'ora o distinguere la destra dalla sinistra. Insomma, è un'esperienza che ben conoscono i genitori di quei bambini che hanno proprio queste difficoltà. Oggi ne parliamo con il massimo esperto italiano, non solo italiano, il professor Giacomo Stella, professore di psicologia clinica all'Università di Modena e Reggio Emilia e fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a tutti. Allora, la dislessia, da quando ce ne occupavamo noi, voglio sottolinearlo perché insomma, io ho recuperato nel nostro archivio puntate del 2005, quando di dislessia non parlava ancora nessuno, dei disturbi specifici dell'apprendimento. Se ne parla ancora forse poco, alcuni ancora non lo conoscono, ma dall'altra parte c'è chi dice è possibile, tutti questi dislessici dove sono spuntati fuori? Allora, due estremi che vorrei subito commentare con lei, prof. Sì. Allora, è vero che dal 2005 ad oggi è passata, come si dice, tanta acqua sotto i ponti, ma soprattutto dal 2010 abbiamo una legge, la legge 170, che tutela i diritti dei ragazzi a scuola. È chiaro che questo ha provocato da parte della scuola una reazione, perché la scuola ha vissuto questa legge come una legge un po' vessatoria, no? Ma è come quando hanno introdotto il divieto di fumo nei locali, no? Allora tutti hanno detto, come, non posso più bere un caffè fumando una sigaretta. Però oggi la cultura nel frattempo è cambiata. Se tu vai in un ristorante e senti odore di fumo, anche se sei un fumatore non ci vai, perché dici, mi altera il gusto. Dieci anni fa cosa c'era allora? Perché non te lo alterava? Quindi dobbiamo tutti fare uno sforzo per capire il problema, non assumendo atteggiamenti difensivi. La scuola purtroppo ha perso fin qui, nella stragrande maggioranza, un'occasione per ripensare a un aspetto molto importante. E cioè, ma come facciamo a insegnare a coloro che non apprendono? Perché guardi che la scuola non si è mai in realtà occupata di apprendimento. No, perché quando tutti sappiamo che quando un bambino non impara bene, l'insegnante dice al genitore, scusi, lei deve fare qualcosa. Ma sei tu l'insegnante? E i bambini che hanno più bisogno degli insegnanti sono quelli che non imparano. Che fanno più fatica. Certo. Quindi la scuola ha sempre delegato alla famiglia i problemi dell'apprendimento. Io insegno, tu impari, punto. Ma così non funziona. E allora, prego. Allora oggi parleremo e quindi vogliamo raccogliere anche le vostre esperienze, i vostri racconti, i dubbi all'800 24 00 24 di chi fa fatica a leggere, scrivere e a calcolare. Per noi sono degli atti molto semplici, automatici, che risulta quasi difficile per noi capire come ci siano delle persone, certo, dei bambini che facciano fatica. Infatti spesso delle persone, dei bambini con disturbi specifici di apprendimento, quando non si parlavano ancora, no? Non si parlava ancora di questo tema, non veniva così affrontato, erano un po' etichettati come bambini svogliati, pigri, che non studiavano a sufficienza. Adesso qualcosa è cambiato, continuerà a cambiare. Lorenzo da Brescia ci ha già subito chiamato per raccontarci la sua esperienza. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua, ci racconti. Allora, io vorrei iniziare subito che ho scoperto il mio problema un po' tardi, all'età di 25 anni, nel bel mezzo della mia carriera universitaria. Io mi sono reso conto della cosa quando vedevo che, nonostante ciò che studiassi moltissimo, purtroppo i risultati non venivano. Nonostante ciò che aiutavo anche i miei compagni a preparare vari esami, tutta una serie di cose, loro mi dicevano, scusami, sei bravissimo, come mai te non riesci a superare gli esami? Alla fine ho scoperto qual era il mio reale motivo, facendo una serie di indagini grazie anche alla mia compagna. Ha scoperto di essere dislessico. Quanta fatica, Lorenzo, però, per arrivare a dei risultati. Perché, professor Stella? Perché lo dice proprio Philip Schulz, che fa un'analisi molto accurata. Dice, io ho scoperto una cosa di cui non capivo, non ero consapevole. Cioè, è possibile che tu non ti possa fidare della tua mente, che ti tradisce. Ma scusi, un bambino che scambia la A con la E o la B con la D, ma la maggior parte dei bambini dopo un anno non ha nessuna difficoltà. Invece la tua mente ti imbroglia, ma prima che tu ti renda conto che la tua mente ti imbroglia o che la tua mente ti fa fare una fatica esorbitante e dei giri strani per arrivare alla lettura, alle volte ci vogliono per il nostro amico interlocutore 25 anni, per Philip Schulz 58 anni. Lui lo ha scoperto perché hanno diagnosticato suo figlio, allora ha detto: ma ecco perché ancora oggi che io faccio il poeta detesto leggere. Perché faccio una fatica micidiale a leggere, perché questo problema rimane nel tempo e quindi, nonostante i miglioramenti che ci sono, come descriveva il nostro ascoltatore, però i risultati poi, soprattutto quando si va a fare le prove di verifica a scuola o gli esami all'università, perché lì hai un tempo contingentato, dentro quel tempo lì devi fare qualcosa, devi anzi fare tutto, non fare qualcosa, perché se fai se troppo poco ti cacciano. No, esatto, ti cacciano, e allora lì subentra la difficoltà. Perché... Professor Stella, ricordiamo che un disturbo specifico dell'apprendimento non ha nulla a che vedere col quoziente intellettivo, no, del anzi, ragazzo. Il contrario. Il contrario, noi per poter porre una diagnosi di disturbo ossessivo di apprendimento dobbiamo prima verificare che il quoziente intellettivo sia nella norma. Quindi sono sempre bambini, perché la diagnosi è basata sulla discrepanza fra le tue capacità cognitive e le tue abilità di leggere, scrivere e fare i calcoli. In fondo un computer che non è intelligente legge, perché tradurre i segni in parole è un compito procedurale, in realtà, soprattutto in italiano, non in altre lingue, che bisogna capire quello che c'è scritto per pronunciarlo, ma in italiano no, quindi la sintesi vocale esegue una procedura. Questo non è correlato con l'intelligenza. Ecco, questo vogliamo sottolinearle. Voglio, lei ha aperto ricordando la legge, Alex da Reggio Emilia, gioco subito il carico, ci scrive. L'Associazione Italiana di Dislessia non fa abbastanza per far sì che si migliori la legge 170, rendendo responsabili i dirigenti che permettono alle scuole di non rispettarla. Oggi molti ragazzi vincono al TAR, ma le scuole inadempiente non pagano. Paga sempre Pantalone, scrive Alex, cioè noi, e in questo modo nessun insegnante si impegna per formarsi sull'argomento e pagano sempre i ragazzi. Facciamo un rapido, allora, il ragazzo, c'è una diagnosi che permette, sono dei test che permettono di diagnosticare il disturbo specifico d'apprendimento, una legge che dovrebbe tutelare i ragazzi, quindi dare loro la possibilità di avere degli strumenti compensativi, anche delle misure in grado di, no, superare, un po' come un bastoncino, no? Gli occhiali, ecco, gli occhiali per chi vede male, ecco, gli danno gli occhiali in modo che lo rendono capace, no? Lo mettono nella stessa condizione dell'altro, dei compagni. Però questa legge, Zoppi, sembra che non sia rispettata da tutte le scuole. Che cosa state facendo? Vuole raccogliere la provocazione di Alex? Certo, assolutamente. È chiaro che la battaglia è ancora in corso e sarà una lunga battaglia, fra virgolette, una battaglia, insomma, una costruzione di pratiche, di buone pratiche. Lei pensi che queste misure devono essere recepite dalle scuole, devono essere scritte e presentate nel piano didattico personalizzato. Cos'è il piano didattico? È appunto un piano che contiene le misure compensative e le misure dispensative a cui ogni ragazzo, perché mica tutti hanno le stesse esigenze, no? Qual è il problema però? Chi verifica che poi queste vengano applicate? Perché io faccio riferimento anche ad una realtà recentissima, agli esami di riparazione per un ragazzo di scuola media superiore di un istituto tecnico. Sto parlando di atti che io ho visto, perché ho davanti anche un avvocato qui. Sì, allora dobbiamo svelare l'avvocato no, Gabriele Fave sì, con noi, poi magari lo salutiamo adesso. Gli giro il microfono velocemente. Chissà, guardi, sì. Accesso agli atti. La famiglia ha chiesto l'accesso agli atti, per cui io ho in mano i documenti che dicono che il consiglio d'istituto, nel momento in cui ha mandato a settembre il ragazzo, aveva scritto che in storia dell'arte si sarebbe svolto un esame orale su questi argomenti. Dopodiché a settembre l'esame è stato scritto e anche lì c'è l'accesso agli atti e c'è la prova scritta. Dov'è finito l'esame orale? Oltretutto la legge prevede che il voto dell'orale dovrebbe prevalere sul voto dello scritto proprio perché il soggetto ha una difficoltà, ma lo fa persino la motorizzazione civile, l'esame orale ai dislessici, possibile che sia più sensibile della così scuola? Così rispondiamo ad un altro messaggio che era arrivato via WhatsApp. Allora, i genitori possono, naturalmente non devono sostituirsi allo specialista che è chiamato a fare il test, ma i genitori possono iniziare a capire se il bambino che fa fatica così a leggere, a scrivere, a far di conto ha un problema dettato magari ad una sua immaturità, magari non è attento a scuola ed è invece da uno disturbo specifico d'apprendimento. Il professor Tella ci ha già dato qualche indicazione, scambiare la A con la E, la B con la D, ma in linea con noi abbiamo anche Valentina Campanella, logopedista, tecnico dell'apprendimento. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Che è tornata a trovarci? Buongiorno. Sono tornata a trovarvi molto molto volentieri, quindi vi ringrazio a tutti dell'invito. Allora, il professor Tella li ha già anticipati, ricordiamo i segnali sospetti che un genitore deve imparare, deve sapere per imparare nel caso a riconoscere nel suo bambino, dato che di solito questi disturbi si manifestano proprio nei primi anni di scolarizzazione, perché è proprio in quel periodo che il bambino viene messo alla prova. Certo, il professore ha già un po' anticipato quelli che sono ovviamente i possibili segnali, ma intanto possiamo dire che quando la lettura appare molto lenta e faticosa, oppure durante il processo di lettura vengono scambiati anche dei suoni come sì, la P, la D, la A, la E, come ha detto il professore, o addirittura a volte vengono saltati anche dei riti. Questo ovviamente potrebbe intanto allarmare un genitore e dire: com'è che mio figlio impiega così tanto nell'elaborazione di lettura? Come ad esempio per la scrittura. Nella scrittura molto spesso, quando ci sono problemi inerenti a disgrafia e disortografia, possiamo trovare delle difficoltà legate alla gestione del foglio e di conseguenza dello spazio e anche del rigo. Bambini che spesso non scrivono all'interno del rigo, hanno un tratto estremamente marcato e che hanno difficoltà con delle regole ortografiche di base, confusione di suoni, F con V, T con D, P con B. Ecco, tutti questi segnali che perdurano, diciamo, dopo il primo ciclo di apprendimento, quindi parlo dei primi due anni, devono essere segnali che devono in qualche modo attenzionare l'attenzione del genitore. Andiamo, c'è un genitore in linea, Debora. È pronto ed è Gabriele che ci chiama da qui vicinissimo, da Milano. Gabriele, benvenuto. Gabriele, buongiorno. Ci sente? Eccoci qua, a lei. Eccomi. Sì, sono genitore di una bimba a cui è stata certificata la dislessia l'anno scorso, dopo un percorso durante la scuola elementare in cui era stata invece certificata la discalculia, la disgrafia, la disortografia. Ecco, io volevo intervenire un po' per confrontarmi, visto gli esperti che ci sono, perché in realtà succede questa cosa. Prima voi avete raccontato, ecco, il versante della legge, cioè la legge impone alla scuola l'uso degli strumenti compensativi. Ecco, questi giorni la mia figlia passa dalla quinta elementare alla prima media e noi abbiamo acquistato il computer perché lei lo possa usare a scuola come è previsto dal suo piano di lavoro, però non adesso questo è già due giorni che va a scuola e è una discussione infinita. Lei il computer con sé non lo vuole portare. La fatica è data dal fatto che lei si confronta con tutti gli altri che e questo computer con questo PC la fa sentire in qualche modo diverso. Dovrebbe compensare, sì. Invece rischia di ghettizzarla. Professor esatto. Tella, sicuramente il tema che solleva Gabriele è molto interessante, condiviso da tanti ascoltatori. A volte lo strumento compensativo può giocare ha un brutti effetto scherzi, bravo. Sì, sì. Brutti cosa scherzi, suggerisce? Soprattutto nell'età preadolescenziale. perché i bambini in scuola primaria invece non hanno difficoltà a mettere in campo tutte le misure perché loro si confrontano più liberamente. Quindi che cosa suggerisco? Che sì, tutta la classe adotti questi strumenti. Possibile che, allora, in altri paesi, proprio alle scuole medie, vengono introdotte le ore di utilizzo dell'informatica. Ci sono esperienze nelle scuole in cui, alla scuola media, uno degli strumenti, cioè il ragazzo può scegliere gli strumenti, usare il computer oppure, ma non perché è dislessico, perché a quell'età lì si può usare anche il computer, può, nessuno di noi potrà scrivere in futuro relazioni, documenti, progetti. Ecco, lei parla di una scuola amica. Sì, in fondo. Io parlo di scuola amica intendendo una scuola che non è nemica delle famiglie come succede adesso, o comunque perlomeno che vive le famiglie come contraddittorio. La scuola amica deve assumere su di sé tutte le funzioni. Io ti insegno e ti aiuto ad apprendere. Non io ti insegno e se tu non apprendi sono cavoli della famiglia. E deve cominciare a usare tutti gli strumenti della società di oggi, non gli strumenti che... Perché se noi entriamo in una scuola superiore, chiudo, 40 anni fa o oggi, più o meno la situazione è lo stesso. Lo stesso Tullio De Mauro, che è stato ministro dell'istruzione, dice che la scuola è bloccata sulla Sacra Trinità. Uno, ascoltare in silenzio le lezioni frontali del docente. Due, studiare sui libri a casa. Tre, fare le verifiche in classe. Ma la scuola non è più così, soprattutto negli altri paesi che ci superano. La scuola è una comunità di discussione. Poi stavo pensando, oltre che scuola amica, oggi il programma del governo si chiama Buona scuola, che potrebbe essere adottato identicamente. E a proposito di un esempio di scuola amica, riporteremo l'intervista di un preside, di Salvatore Giuliano, preside dell'Istituto Maiorana di Brindisi, avevamo raggiunto proprio per invitare a raccontarci la sua esperienza, perché nella sua scuola hanno lavorato molto, tanto che lui sfiderebbe anche il professor Stella a entrare in classe e capire qual è il ragazzo dislessico. Trovate l'intervista a questo preside di questa scuola amica sulle pagine di Book in Progress. Loro, lui non deve sfidarmi perché noi siamo grandi amici e io sono un amico della sua scuola. Sfiderebbe. Per dire un esempio. Un modello eccezionale. Dobbiamo continuare a lavorare, sicuramente torneremo su questo tema, magari ci facciamo insieme a Deborah, il professor Stella, inventiamo qualche cosa, un progettino per tenere un contatto anche con i genitori e con i ragazzi. Professor Stella, finalmente l'abbiamo vista. Ci sono voluti 11 anni, io non so se fra 11 anni ci sarò ancora, vediamoci prima. Chissà se è più prima. Facile prendere appuntamento io con lo studio legale dell'avvocato Fava, tu che dici? Beh, è una bella lotta, va? Però vedo che i due si sono piaciuti. Abbiamo fatto questa carambata stamattina. Tanto che è andata bene. Vero, il professor Stella guardava sempre l'avvocato e poco noi. Non gli siamo piaciute, dici? Non abbiamo acchiappato. Grazie al professor Stella, grazie alla molto dottoressa per quello Campanella. Che fate per grazie i bambini molte. Con disturbi specifici di apprendimento. Grazie. Dottoressa Campanella, metteremo lei anche al lavoro perché immagino i nostri genitori ci scriveranno e abbiamo bisogno naturalmente come sempre del suo aiuto. Grazie. Molto volentieri. A presto. A presto. Adesso andiamo a sentire la borsa velocemente, poi apriamo un'altra parentesi molto importante e delicata. Parleremo di lavoro perché nella richiesta che abbiamo fatto agli ascoltatori di inviarci le loro segnalazioni su temi che avrebbero affrontato volentieri, subito il capitolo lavoro per quello che riguarda i denari è stato il più gettonato, per cui parleremo di lavoro tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Allora iniziamo. Che cosa sta succedendo? Cosa mi hanno mandato in onda? Non ho capito. Ho sentito, mi si è infilato qualche cosa nell'orecchio tra la cuffia. A non casa lo so. Capita. Vabbè, pazienza. Quando, Allora, meno te lo aspetti. Iniziamo questa parte di denari anche in questo caso con la testimonianza di un'ascoltatrice. Vi abbiamo invitato ad inoltrarci dei suggerimenti sul tema che vi piacerebbe fosse trattato a cuore denari. Voi non avete perso tempo, quindi prima parte della trasmissione è dedicato praticamente ad una testimonianza, ad una richiesta di una mamma. In questo caso invece sentiamo, per quello che riguarda la parte di denari, la voce di Susi su un tema che ci sta molto a cuore e che è il lavoro. Sono una giovane pensionata e avendo del tempo a disposizione mi sono cimentata nella ricerca di un lavoro a domicilio, un telelavoro, sia come gratifica personale che economica. Ho trovato dei siti che il lavoro lo vendono, chiedono soldi e coordinate bancarie per l'acquisto di kit oppure per corsi di formazione online oppure con interviste, con ricerche di mercato per l'acquisizione di un minimo di punti, rispondendo però a una quantità assurda di questionari. Io penso che il lavoro non si compra e mentre il 99% di questi annunci che propongono questo tipo di lavoro non è assolutamente qualcosa di affidabile, di serio. Mi piacerebbe saperne di più e soprattutto insomma da persone qualificate qualcosa sul telelavoro per potermi affidare in maniera serena e cercare in maniera ottimale qualcosa che possa andare bene per me e per tante altre donne che hanno il mio stesso problema. Grazie. E insomma, quella di Susi è una storia che ha anche delle sfaccettature molto delicate, una giovane pensionata, poi un'altra battaglia che ha condotto e avete capito di che cosa sto parlando. Ora ha questa esigenza, non si vuole dare per vinta, vuole dare ancora il suo contributo al mercato del lavoro, dice per me l'opzione potrebbe essere quella di lavorare da casa e quindi ha provato a documentarsi sull'esistenza dei cosiddetti lavori a domicilio, anche se abbiamo capito che questo è un mondo che sta completamente cambiando dal punto di vista contrattuale. Attuale, possono essere tanti modi per tradurre questa tipologia di lavoro. Oggi sentiamo sempre più parlare di smart working, telelavoro, oltre che lavoro a domicilio, lavoro agile, ma quale può essere la risposta alle esigenze di Susi, che in realtà si chiama Assunta? Qual è la differenza fra queste diverse forme di lavoro? A che punto siamo in Italia dal punto di vista legislativo nell'approvazione delle norme che li regolano? Ecco perché abbiamo interpellato, lo abbiamo già presentato, l'avvocato Gabriele Fava, giuslavorista, titolare dello studio legale Fava Associati, esperto per il Sole 24 Ore sui temi del lavoro. Benvenuto. Grazie mille, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, partiamo, avvocato Fava, subito dalle definizioni. Esiste ancora dal punto di vista giuslavoristico il contratto di lavoro a domicilio? Quando io preparavo la puntata venerdì mi è venuto in mente per esempio quello che accade a Loreto, voi lo sapete, c'è la Madonnina Nera, il santuario e una grande distribuzione e vendita di tutti quei gadget di tipo religioso, no? Per esempio le corone per di recitare il rosario, e io mi ricordo che avevo una zia che le faceva a casa, quindi mi divertivo anche molto spesso a passare dei pomeriggi con lei ad infilare le corone. Avvocato Fava, esiste ancora una tipologia di lavoro di questo tipo? Certamente sì, è fondamentale l'argomento di cui parliamo oggi proprio perché ancora di più oggi quel mercato del lavoro che c'è, che vediamo, che tocchiamo con mano continuamente, bisogna per forza parlare di nuove frontiere del lavoro. Ecco perché sempre di più, l'avete detto voi molto bene, si parla di smart working o lavoro agile, ma telelavoro e lavoro a domicilio sono tutti quegli strumenti oggi che servono per facilitare il reingresso, la continuazione del mercato del lavoro anche di soggetti che apparentemente hanno dato al mercato del lavoro la propria vita professionale. E quindi, tornando alla domanda di un attimo fa, il lavoro a domicilio c'è, come è stato disciplinato a suo tempo da una legge, oggi è stato introdotto e viene utilizzato parecchio. È importante sottolineare le differenze naturalmente tra lavoro a domicilio, telelavoro e smart working. Il lavoro a domicilio nasce nel 73 con una legge del 73, del dicembre 73. È utilizzato perché? Perché è proprio la parola che lo dice, lavoro a domicilio, quindi da casa, e questo è fondamentale per poi distinguerlo dagli altri, anche se sono sempre sottili le differenze. Quindi il lavoro a domicilio viene svolto da casa. Non si tratta però generalmente di un rapporto di lavoro dipendente, nel senso che la persona ha una tipologia di impegno che gli viene assegnato da un committente, ma è un lavoratore autonomo a tutti gli effetti, però, avvocato Fava. O no, può essere anche un dipendente che svolge una mansione. Può essere anche un dipendente, esattamente. Tant'è che deve essere trattato alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti dell'azienda, dell'impresa che ha dato la possibilità al lavoratore a domicilio di questo tipo di rapporto di lavoro. Quindi da questo punto di vista non ci deve essere una discriminazione. È un po' mutatis mutandis come avviene ad esempio per l'ex lavoro interinale e lavoro somministrato oggi. Certo. Anche lì stessa parità di trattamento globale, quindi anche retributivo da questo punto di vista. Ecco perché non c'è e non ci deve essere una discriminazione. Certo. Facciamo allora subito chiarezza sulle differenze fra lavoro e domicilio. Io immagino che quando chiedo di svolgere, quando trovo un'opportunità professionale di questo tipo, significa che proprio faccio un lavoro manuale a casa. Magari non è un lavoro di carattere amministrativo, impiegatizio, no? Avvocato, mi sbaglio? Oppure si può definire lavoro a domicilio anche quello? Oh, non si sbaglia, era nato per questi tipi di attività manuali. Oggi, come anche le altre forme, si sta evolvendo, si sta perfezionando, soprattutto si sta adeguando ai tempi moderni, quindi anche l'invasione in senso positivo della tecnologia naturalmente va a inquinare ancora una volta in senso positivo questi tipi di strumenti. Mi riferisco moltissimo ad esempio allo smart working, ma anche al telelavoro. Il lavoro a domicilio era nato per questi tipi di attività più prevalentemente manuali, ma oggi si sta sviluppando laddove possibile, perché naturalmente ci sono dei confini oggettivi in relazione ai quali non è possibile svolgere il lavoro come lavoratore a domicilio. Quali sono, diceva bene, quali sono le differenze, le principali differenze, le principali caratteristiche che contraddistinguono il lavoro a domicilio? Sono ad esempio che è il datore di lavoro che decide il lavoro da svolgere, il metodo di esecuzione e il relativo tempo di consegna. Ecco perché ad esempio la retribuzione del lavoratore a domicilio, e intenzionalmente si parla di retribuzione perché parliamo di un lavoratore dipendente, anche dipendente, viene corrisposta sulla base delle tariffe di cottimo che vengono stabilite dai contratti collettivi di primo livello o eventualmente dal contratto collettivo di secondo livello laddove esistente. Certo. nel datore. Quindi queste sono grosse differenze. Il lavoratore a domicilio... Quindi non c'è il focus sull'obiettivo come nelle nuove regole, diciamo, del lavoro agile o smart working. È giustissimo quello che dice, è proprio vero, questa è un'altra sottile differenza, ma è importante, proprio perché si differenzia dallo smart work, il lavoro agile, dove in realtà degli obiettivi possono essere facilmente messi. Ecco perché ad esempio lo smart working o lavoro agile non è possibile farlo ad esempio sulla catena di montaggio, non è assolutamente possibile. Allora, tornando, appunto, abbiamo già dato conto di tutte le differenze fra i nuovi istituti che abbiamo del lavoro, smart working e lavoro agile, rispetto a questo che invece tradizionalmente già conoscevamo, il lavoro a domicilio. Quali altre differenze? Ecco, c'è un'altra caratteristica molto interessante, che il lavoratore a domicilio, a differenza degli altri, può farsi aiutare anche dai familiari. E quindi ecco perché tutto sommato è in linea con la definizione di lavoratore a domicilio a casa, e a casa si può fare anche aiutare dagli altri familiari. Quindi questa è una differenza importante che porta a poter sviluppare il lavoro a domicilio a casa, estendendolo anche a, non dico tutta la famiglia, però laddove possibile si può fare. Questo riferimento non snatura l'istituto del lavoro a domicilio, quindi è molto importante. Certo, allora chissà se tra i nostri ascoltatori ce n'è qualcuno che sta a casa adesso proprio avendo un lavoro, un rapporto di lavoro di questo tipo. Chiamateci all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666 e vedo già Nicoletta che mi annuisce monitorando WhatsApp. Certo, lavoro a domicilio, finiture per abiti di extra lusso. Ci scrive un'ascoltatrice, cappotti, giacche, sì, sono tutte finiture a mano. È un'altra zia che rifiniva le camicie adesso che ci penso. Mediamente lavora 10 ore al giorno per 2,50 euro all'ora. Ecco, avvocato Fava, vogliamo aprire un'altra parentesi? Questo è un tema delicato, quello della retribuzione. Ancora vedo che c'è molto da fare, appunto, probabilmente anche... Passatemi il termine, una sorta di escamotage da parte di molti datori di lavoro di esternalizzare certi ambiti che sarebbero un po' più costosi se rimanessero in azienda. Certo, dice bene, in questo caso non sappiamo che tipo di contratto le hanno fatto, o meglio, se è un lavoro a domicilio o è un lavoro subordinato, autonomo, una collaborazione, non si sa. Sì. Magari ammettendo che sia il domicilio in piena regola. Ecco, ma ce lo farà sapere. Comunque, partendo dalla premessa che sia lavoro a domicilio, l'abbiamo detto un attimo fa, il lavoro a domicilio è disciplinato sotto il profilo retributivo dalla contrattazione collettiva, dai contratti collettivi di categoria. Ci sono delle tariffe, quindi c'è una retribuzione minima che viene prevista e deve essere applicata. Ora, se quella non è, ecco, cadiamo in un altro... Esatto, in un altro che cosa? Che cosa è il termine giuridico che ci definisce esattamente la situazione potenziale di questa ascoltatrice? Aperta violazione della norma di legge in materia, esatto. Quindi automaticamente... Scatta l'avvocato qua, ma speriamo di no. Allora, ci fermiamo perché abbiamo il traffico adesso. Per la verità, Susanna, Assunta, che ci ha scritto, sollevava un'altra questione. Il fatto di trovare su internet tantissime offerte, proposte di lavoro a domicilio, ma dice in realtà tutti pongono attenzione, diciamo la sensazione di imbattersi in un sacco di offerte di lavoro farlocche, truffe e quant'altro, per cui magari avvocato Fava ci darà anche qualche indicazione su come riconoscere una proposta di lavoro che sia invece seria, che viene veicolata appunto da internet, e quindi quali sono anche quegli elementi a cui dobbiamo fare attenzione. In realtà l'avvocato Fava ci ha portato anche un altro monitoraggio interessante condotto su tutte le grandi aziende italiane, fondamentalmente multinazionali, che in realtà stanno proponendo in maniera molto massiccia contratti di smart working con i propri dipendenti, per cui ci piacerebbe un po' sapere come sta andando in Italia. Tra poco. Cuore e denari. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista o lavoro a domicilio, insomma è quello di cui stiamo parlando questa mattina. Stavamo così ragionando a microfoni spenti con Nicoletta e con l'avvocato Gabriele Fava di quelli che possono essere oggi gli ambiti in cui una certa tipologia di rapporto del lavoro c'è ancora, e ragionavamo anche sul fatto che qualche volta però un po' pecchiamo di ingenuità. Avvocato Fava, se un datore di lavoro, un potenziale committente, ci chiede di mettere sul piatto 100 euro per iniziare un rapporto di lavoro, diciamo che questo deve essere già un segnale che quantomeno ci deve insospettire un filino, eppure c'è ancora chi ci cade. Ha ragionissimo, io condivido completamente il suo pensiero, e purtroppo c'è, come detto bene, c'è ancora chi ci casca, e la cosa grave è che c'è ancora chi ci casca proprio oggi, quando ormai ci sono degli strumenti e delle situazioni molto ben chiare. E faccio un banalissimo esempio: oggi se trovi il lavoro su internet, sui giornali, da qualsiasi parte, che viene offerto da enti accreditati, mm-hmm, enti formativi anche accreditati, e allora io posso andare sereno, perché comunque sono enti che conosco, enti che avrebbero degli effetti collaterali importantissimi. Prendiamone uno: agenzie per il lavoro. Agenzie per il lavoro vivono di un'autorizzazione ministeriale. Se sbagliano, questa autorizzazione ministeriale gli viene levata, quindi muoiono sostanzialmente perché non possono più operare, oltre a tutte le altre conseguenze. Quindi se io troverò un'offerta di lavoro da parte di una di queste agenzie per il lavoro, che oggi sono molto note, c'è un albo, bene. Sono dei giganti, assolutamente. Appunto, tra l'altro, insomma, sono ben solidi, visibili, quindi sono dei punti di riferimento chiari e seri e professionali, perché ci tengono e devono farlo. Certo. Ma se viceversa, domani, faccio un esempio, trovo un annuncio su internet di Gabriele Fava, per dire, personalmente, che ti fa determinate offerte anche molto poco chiare, molto generiche, magari a condizione che ci sia una contropartita, delle domande me le devo porre subito, non dopo, e quindi devo andare a verificare ma chi è, chi non è, che cosa rappresenta, chi rappresenta, che tipo di garanzie mi può dare, che tipo di rapporto di lavoro mi vuole instaurare. Certo, avvocato, stavo pensando che per esempio è ancora molto diffusa la vendita di prodotti per esempio della cosmesi, no? A casa propria, soprattutto molte ragazze giovani si avventurano in questo terreno, che è anche molto interessante perché comunque è un mercato molto vasto. Ecco, se l'azienda, che magari può essere anche di un brand molto noto, ci chiede di acquistare uno stock di prodotti da vendere e magari poi ci riconosce la percentuale sul venduto, eccetera, è proprio davvero da respingere un'offerta di questo tipo, o comunque possiamo anche tentare? Beh, non è un rapporto di lavoro. A quel punto è un diverso contratto, è un contratto in base al quale io acquisto e mi accollo anche il rischio della vendita, perché se poi non vendo, io intanto acquisto e devo pagare. Dopodiché, se venderò, è un problema mio. Ma questo solo per far capire quanto è diversa la tipologia del contratto. Non è un contratto di lavoro questo, è una scrittura privata, un contratto di natura commerciale. Certo. Non è neanche un contratto di agenzia, per dire, dove invece io agisco in nome per conto del mio preponente. Io vendo, facciamo un esempio, vendo penne, ecco che ti dico, guarda, vai in giro a vendere le penne per conto mio. Diverso è il caso se ti dico, acquistami 1000 penne e vai a venderle. Non è questo un rapporto di lavoro, è un rapporto commerciale diverso. Quali altri segnali dobbiamo notare per capire che abbiamo ci siamo così avventurati in un terreno pericoloso e siamo incappati in una proposta di lavoro anche truffaldina? Ma certamente quello che abbiamo appena detto è significativo ed è determinante. Che se ti chiedono del denaro, o è ovvio che hai a che fare con uno che agisce in malafede. Esatto. Poi sembra un dettaglio, spesso volentieri non ci sono i riferimenti né telefonici né anche indirizzi, e anche questo è un altro elemento che pare un dettaglio, ma di solito è fatto proprio per essere irreperibili, quindi per non pagare dazio. Posso usare questo termine: io ti faccio lavorare in piena spregio di tutte le norme di legge, poi tu mi farai causa, fa niente, tanto non mi prendi perché, certo, perché sono inesistente giuridicamente parlando. È gravissimo. Quindi spesso e volentieri ci sono alcuni referenti che ti lasciano degli indirizzi oltre, fuori dall'Italia. Bisogna stare molto attenti, diffidare assolutamente da questi, perché praticamente sta sola. Scritta esattamente. Giuridico, vero? Alla romana, esatto. Ecco. Un altro aspetto, un'altra prassi che a quanto pare è molto diffusa: non si propone l'acquisto di nessun kit di prodotti, ma si propone per esempio di fare un corso di formazione, di training. Anche in questo caso, per darti lavoro vieni a formarti, tu prima pagati il corso, dopodiché valutiamo se fare o meno, se andare avanti nel rapporto di lavoro. Giustissimo, è l'inverso che bisogna fare. Io prima ti do il lavoro, durante il contratto di lavoro, se ho bisogno che tu sia formata o formato, benissimo, ti formerò, ma non a tue spese, ovviamente, perché il datore di lavoro o committente, che dir si voglia, perché datore lavoro subordinato, committente lavoro autonomo, si può scegliere, non è escluso. Beh, comunque in ambito i due casi tendenzialmente la formazione dovrebbe essere a carico, certo, di chi ti ha assunto o di chi ti sta dando un incarico di lavoro. Un altro potenziale datore di lavoro del quale sospettare è quello che non ti chiede nulla di te, neanche un curriculum, non vuole sapere quello che hai fatto, ma vuole partire subito in questo rapporto di lavoro, avvocato. Ma certamente è molto sospetto, come anche mi fa venire in mente quelli che ti dicono guadagno facile, esatto, inizi a lavorare, dopo 2 mesi guadagni 3.000 euro. Ma dove? Questo è un tema molto diffuso anche in finanza, ci sono molti soggetti, trader di dubbia professionalità, che propongono appunto l'investimento in borsa con la promessa appunto di guadagnare e triplicare in tempi velocissimi i propri investimenti, e ne parleremo noi nel nostro programma. Ci rimane pochissimo, avvocato Fava, ma ci vuole raccontare cosa ha scoperto fra le aziende italiane e cosa fanno con lo smart working? Le devo chiedere in 40 secondi. Ma certo, velocissimo. Smart working, nuova frontiera del lavoro, oggi molto interessante, miglior strumento di conciliazione vita-lavoro, quindi sistemi di work-life balance, e tant'è che molte imprese di natura privatistica e non, anche pubbliche, anche stanno pubblico andando. Abbiamo ormai sistemi di work from home individuati da, ad esempio, dalla Coca-Cola, che dà in smart working un giorno alla settimana a scelta del lavoratore, ma così anche altre multinazionali importanti. Nella pubblica amministrazione chi lo fa? Pubblica amministrazione, molto interessante, Banca d'Italia, che ha iniziato con questo sistema di smart working, ma non solo, Inail è un sistema molto interessante, molto, molto elevato, molto raffinato, e anche la provincia autonoma di Trento, che è sempre una best practice, che ha introdotto il Telepat, che è una sorta di telelavoro, ma molto vicino allo smart working. Le organizzo una puntata solo su questo, per volentieri. Adesso grazie di avercelo anticipato, torniamo domani? Direi di sì, alle 10.30 vi aspettiamo per Buona Denari, buona giornata.